stata molto bella, sono contento, lo voglio dedicare assolutamente al Ziz, secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Bisogna stare sereni, quando le cose non vanno benissimo bisogna mantenere calma e serenità. Un grandissimo entusiasmo che questo Open Italia meritava, è stato un giro incredibile, assolutamente, specialmente le seconde nove sono state probabilmente le migliori della mia vita. Tutti convocati di Carlo Genta. Ti prego, fammi uscire una lacrima, una sola. No, ci sono stati dei contatti, ma sono stati così sms o cose di questo genere, ma non, oppure contatti che erano soltanto di simpatia, ma non di progetti o programmi. Insomma. Quindi non potrà mai, potrà tornare un giorno Mourinho? Beh, questo è il futuro. Insomma, sì. Nella sua vita ha amato tanto il povero José, tutte le donne che ha conosciuto lo portano con sé. La prossima stagione non torno. Prossima stagione non torno, voglio tornare un giorno, voglio, è vero, questo non è bugia, questo è il cuore che parla e voglio tornare un giorno come voglio tornare anche in Inghilterra, però da momento il mio prossimo club non sarà sicuramente l'Inter. Fuori il nome, voglio sapere chi ha scritto "Sembrava un film porno". Questa canzone, 800240024, mi chiami subito. Tutti convocati, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Vuoi sposarmi? No. José Mourinho tornerà, ma non adesso, tornerà dopo. Amore o non amore, questo non lo so. Buffon pensionato, ma risponde oggi Marotta a Beckenbauer. Rispetto per Buffon, è un'icona. Risponde anche Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport. Beckenbauer precisa: non ho detto che Buffon è un pensionato, ma solo che mi era sembrato di averlo visto in coda all'Inps. 800240024, saluto una grande firma del giornalismo italiano come Maurizio Corsetti di Repubblica. Ciao Maurizio. Vabbè, troppo buoni, grazie. Prende e porto a casa comunque. Prendi e porta a casa. Senti, vuoi partire da Mourinho, dalle sue dichiarazioni d'amore? Qualcuno mi sembrava un film porno, la canzone che abbiamo messo, o da Buffon pensionato? Decidi tu. Come l'hai detto, dai, cominciamo da Mourinho. Dai, cominciamo da lì, che Mourinho è già in semifinale. Io sogno una finale Barcellona-Real Madrid con Mourinho che alza la coppa. Lo dichiaro pubblicamente. Sì, io però non trascurerei il Bayern perché l'ha persa due volte in tre anni e sarà che ho ancora negli occhi la partita dell'Allianz Arena e mi ha davvero molto impressionato. Dopodiché sì, effettivamente sarebbe un bel epilogo quello che dici e sarebbe anche un po' in controtendenza, contro ogni moda, contro ogni facile pronostico. E comunque il Real è una squadra che se non vince la Champions ci va molto vicino quest'anno perché... Ha tutto per farlo, ha compreso l'atteggiamento in campo, che non sarà bellissimo, però poi ti castiga, manda avanti la palla e ti fa sempre gol. Quindi è una squadra terrificante, anche se poi stava per uscire a Manchester ed è stata un po' graziata dall'arbitro turco, però ma rimane uno squadrone, sì. Maurizio, ma come scrivete voi oggi su Repubblica, non tu, ma sull'articolo di Emanuele Gambi, titolisti, eccetera, questione di soldi su Juventus e Bayern Monaco, è solo questione di soldi? No, assolutamente no. La questione di soldi spiega naturalmente le diverse potenzialità di questi due club, però poi alla fine conta anche come li spendi i soldi, cioè non è che la Juventus negli ultimi due anni non abbia speso soldi, ne ha spesi persino in più del Bayern, però per dover comprare molti più giocatori, perché doveva certo ricostruire in sesto e ricostruire la squadra, però insomma poi per carità ci sono intuizioni che funzionano molto bene e quindi scegli Barzagli, scegli Pirlo, vai a cercare Vidal e lo prendi, e poi qualche volta vai anche a prendere Nelka o Bentner, voglio dire il mercato è fatto di tante situazioni, ma non si perde perché il Bayern può spendere 50 milioni di euro per un giocatore che poi tra l'altro non era neanche in campo. Secondo me è un mezzo autogol quello di Conte. È un mezzo autogol quello di Conte? Sì. Le sue dichiarazioni, sì. Dici? Sì, perché lui non può parlare di Paletta e Secchiello con l'orgoglio di essere lui la Paletta, poi, e anche il Secchiello, nel senso che io ero presente alla conferenza stampa della vigilia. Lui ha giustamente detto: stiamo provando da due anni a fare qualcosa di diverso nel calcio italiano, e cioè non essere più quelli che si limitano a subire, ad aspettare e a sperare che risolva il colpo di un campione. Cioè, in sostanza ha detto: noi vogliamo essere una squadra completa, un vero collettivo. E poi però non puoi, solo perché perdi una partita male, riconoscendo la superiorità dell'avversario, in questo è stata sportivissima la Juve, anche sì, Conte, sì. Però non puoi dire la differenza sono i soldi, far capire che insomma noi non possiamo competere perché non abbiamo il supercampione. Allora è quello che hai detto il giorno prima, non vale più. Certo. La paletta e il secchiello sono strumenti ottimi per costruire non solo castelli di sabbia. La Juve non è un castello di sabbia, anche se si è sgretolata a Monaco. Quindi secondo me quelle parole si devono dire al presidente, ma non ai giornalisti dopo uno 0-2. Sì, così lo so. Nitido, no? Così didascalico. Così chiaro, così didascalico, esatto. Però questa partita, allora, il Bayern Monaco è una delle tre più forti squadre d'Europa, a mio parere, insieme alle due spagnole. A questo doppio confronto si chiedeva orale, scritto e orale, della Juventus per l'esame di maturità europeo, ed è lo scritto è andato come sappiamo, cioè voto 4 giù di lì. Prendere 8 all'orale sarà molto difficile. Semplicemente la Juventus si è misurata con il top del livello del calcio europeo. Infatti non c'è proprio nulla di scandaloso nell'essere ancora inferiori agli altri, cioè è una legge dello sport, cioè certo, c'è uno e gli altri certo, sono dietro. Certo, dopodiché certo. Puoi arrivare dietro in mille modi, in modi indegni, in modi indecorosi, in modi pavidi, in modi orgogliosi, in modi combattenti, combattivi. In modi degni, degnissimi, e si può perdere in tante maniere. Intanto la Juve è ancora al secondo tempo di questa partita, di questa lunga partita, e potrebbe, io la conosco, io l'ho vista tante volte, so che davvero è una strana bestia dalle mille risorse che sembra morta e poi ti dà l'unghiata, quindi occhio alla Juve, soprattutto occhio alla Juve ferita. Però certamente non prendere nemmeno un gol dal Bayern, e nel caso doverne poi fare 4, è ovvio che orienta il pronostico tutto dalla parte di Bavaresi, è inevitabile. Però ripeto, lo avevano detto anche alla vigilia, Buffon l'aveva detto in conferenza stampa, ci sta anche nella vita che ci siano avversari superiori. Quando succede di incontrarli bisogna lavorare per ridurre la distanza e per provare al prossimo giro a essere un po' meno inferiori o a essere chissà perché no superiori. Quindi Bayern ce l'ha messo di tempo e ne ha mangiata sì, di polvere. Sì, sì, sì. Perdere sì. Una Champions in casa ai rigori sì, sì, beh, sì, è dura, sì. Eh. È dura. È dura, ma è scritta anche perché vincere la Champions League in casa è un'impresa titanica, ma vuoi per la cabala, vuoi per le stelle, vuoi per la pressione che ti porti addosso, eccetera. C'è chi ti dice, no, a te Maurizio Corosetti, non siamo finiti, occhio a parlare prima, vedi Bayern-Chelsea, vabbè, non faccio finta di niente. Prima di salutarti, Maurizio, volevi invece una parola da te sull'Inter, che sabato si è infuriata, secondo me inutilmente e in maniera ingiustificata, con un arbitro che nulla ha fatto di scandaloso. Ieri sera è andata a tenere viva se stessa con una doppietta di Palacio, vincendo a Genova, però non so per quanto possa essere viva, perché secondo me l'andamento del campionato è già scritto, la Juventus vincerà lo scudetto, a mio parere il Milan arriverà secondo e il Napoli terzo, poi i pronostici li sbaglio sempre, ma questo non credo. Beh, no, le cose, il pronostico che stai facendo è il più logico, il più ovvio, io lo condivido. E la posizione dell'Inter può essere quarto, quinto posto, terzo, difficilissimo, ma poco cambierebbe o cambierà la sostanza di un'annata vissuta tentando di riordinare le idee, di riorganizzare il caos, abbastanza inutilmente, abbastanza invano, perché c'è stato questo caos regna quasi sempre sovrano all'Inter, cominciando da quando si deve scegliere chi comprare e chi vendere. Mi sembra un caos totale nel mercato e un po' anche qualche volta nelle scelte di Stramaccioni, che ha rivelato una personalità un po' ondivaga, no? Ha fatto forse sì, con quello che ha potuto, sì, con quello che aveva a disposizione, e ha cambiato molte volte il volto all'Inter, molte volte la formazione, il modulo, dando proprio l'impressione di non avere proprio idee chiarissime, ma non, forse non può neanche averle con tutto quello che è accaduto in questi mesi. Sono d'accordo. Penso che un'altra occasione sia giusto concederla a questo giovane allenatore, per capire se il caos era padrone, il padrone vero della situazione, o se lui non ha saputo evitarlo e ci ha messo del suo per raggiungerne una quota, no? anche magari minima. Quindi lo vedremo, insomma, lo vedremo. Forse, lo vedremo. Potrebbe forse anche darsi di no. Forse prossimo anno, Moratti ha appena dichiarato, bisogna continuare con lo stesso rendimento. Vabbè, Maurizio, ti ringrazio, ti abbraccio, è sempre un piacere. Grazie a voi, anche per ciao. Te. Maurizio Crosetti, Repubblica. Tutti convocati. Senti, Pina, che faccio? Che si fa ora? Io devo finire qui adesso. E io? Tu niente. Hai lavorato tutta la vita, avrai diritto di riposarti, no? Ti accendo la televisione, vuoi? Di mattina. Beh sì, bisognerà decidersi a chiamare l'antennista. Ma Pina, ma che dici? Ormai ci sono io a casa, no? I tuoi guai sono finiti. Ehi, Pina, com'è che si sale giù sul tetto? Ma no, ci vuole un giovane. Chi? Volevo dire un tecnico. Buongiorno, come la va? No, buongiorno. Senta, allora siamo venuti a portarle, oltre al classico tapiro per quello che è successo ieri, anche le pantofoline, sono per lei, la vestaglietta da pensionato, perché Sir Beckenbauer ha detto che è un pensionato, e la copertina da mettere sulle gambe quando si trova sul pancino. 800 24 00 24, adesso tocca a voi, però ragazzi fate i bravi, io parlo di quello che voglio, voi fate lo stesso chiamando e discutendo di ogni argomento, perché ma spettacolo, ma questi giornalisti dove li pescate, ma chiamatemi un po' che poi ne parliamo insieme e la facciamo fuori. 800 24 00 24. Allora, Buffon pensionato, ma dove l'ha presa questa Beckenbauer? Buffon, Sir Beckenbauer ha detto ormai, insomma, Sir Buffon un pensionato. Ma lei si sente pensionato? Beh, sai, io non posso obiettare nulla rispetto a ciò che dice il vecchio saggio tedesco, diciamo. E per cui penso, insomma, che alla fine un adagio, secondo me, ricorrente in questi momenti è giusto. Dice, quando sei martello batti, quando sei in cudine statti. Per cui c'è da stare zitti, sentirsele senza problemi e aspettare la prossima partita. Insomma, prendi e porta a casa, ha detto, come avete sentito, Buffon a Striscia la Notizia, incassando il tapiro. Se non avete riconosciuto il brano di film che avete mandato prima, vabbè ragazzi, ripassate un po', mitico Fantozzi va in pensione. Quindi è meglio ripassare anche la storia del cinema, perché questa è storia del cinema, vi piaccia oppure no, se volete fare poi i fighi fatelo pure. 800 24 00 24, il senso di questa settimana calcistica è stata dunque che il Real sbriga la pratica a Galatasaray ed è già passato, 3-0, non si discute. Mourinho, come abbiamo sentito, dice sì, torno all'Inter, però prima faccio un giro in Inghilterra, e anche questo mi sembra il senso del discorso. Il Malaga tiene viva la sfida con il Borussia di Dortmund, e questo non me l'aspettavo. L'Inter tiene viva se stessa vincendo a Genova e non so per quanto. La Juventus all'esame, l'abbiamo detto prima, ne parlavamo prima con Maurizio Crosetti, all'esame con un gigante d'Europa, si misura e scopre la sua dimensione. Poi, dice Maurizio Crosetti, ma lo penso anch'io, non è solo questione di soldi, perché la Juventus ne ha spesi, si tratta di ricostruire una squadra, e per questo non basta un giorno e neanche uno scudetto. Questo è il senso e il succo della settimana. 800 24 00 24, adesso tocca a voi. Francesco Milano, Francesco da Torino, Cesare da Pescara. siete sempre tutti convocati su ogni argomento sportivo. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Francesco, da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Genta. Senta, volevo intervenire riguardo alla famosa papera di Buffon, perché lui sostiene che la palla stava andando verso la sua destra, ma non è così. Perché quando parte il tiro, l'uomo bagnoschiuma, quindi Vidal, lo fa una deviazione, ma è già la palla va verso sinistra, quindi non so cosa ha visto lui. No, ma... poi bravissimo portiere. No, allora Francesco, lì ha sbagliato Buffon, cioè papera di Buffon, sì, ci sta. No, però lui sostiene perché... che la palla stava andando a destra. Ma Buffon è molto... ma sì, vabbè, ho capito, ma Buffon è un burlone. Ma non burlone, è molto onesto, l'abbiamo sentito anche prima parlare con Striscia la Notizia, sa perfettamente di aver fatto un errore molto grave, perché quel tiro aveva una traiettoria strana, poi ieri abbiamo parlato anche di quel pallone, però secondo me sono tutte pippe. Alla fine Buffon è partito in ritardo, non è arrivato su quel tiro che non era irresistibile, la Juventus è andata sotto subito, questo gol ha indirizzato la partita. Beckenbauer a sproposito ha parlato di Buffon pensionato e oggi Marotta gli ha correttamente risposto, visto che Buffon giustamente non l'ha fatto, dicendo: Buffon è un'icona, non credo ci siano tanti altri portieri così bravi nel calcio mondiale, Neuer certamente è uno di quelli bravi, e Marotta ha detto: certe esternazioni fatte da un'icona come Beckenbauer fanno male, ci vuole rispetto per Buffon. E io condivido le parole di Marotta, anche perché un campione come resta Buffon si carica davanti a queste esternazioni, quindi vediamo alla partita di ritorno, poi resta una papera quella di Gigi Buffon, ma possono capitare. Francesco Torino. Buongiorno, vorrei intervenire anch'io in merito a queste affermazioni fatte da Beckenbauer sul Buffon e sulla Juventus. Io solo non premetto... Ma lui ha detto che non è un pensionato, ma che l'aveva visto in coda all'Inps, così scrive Gene Gnocchi. Sì, ma a parte questo, io premetto di essere un tifoso milanista, di non aver mai tifato la Juve in vita mia, nemmeno quando era andato in finale in altre occasioni. Però a seguito di queste affermazioni di Beckenbauer mi auguro proprio che la Juve si carichi maggiormente per la partita di ritorno, in modo tale da dare una bella bastonata a questi tedeschi che ci stanno proprio lì sul... come devo dire? Non ne facciamo della politica internazionale, il Bayern è più forte della Juventus e l'altra sera l'ha dimostrato. Io credo che lo dimostrerà anche nella partita di ritorno. Il Bayern Monaco in questa stagione è più forte della Juventus. Io mi aspetto una Juventus rabbiosa, carica, ma non poi. Io spero di sbagliare il pronostico, come faccio praticamente tutti i giorni, no? E voi mi frustate, giustamente. Io non vedo come la Juventus possa ribaltare questo 0-2 con una squadra onestamente molto forte, una delle prime tre del calcio europeo. Ripeto, la Juventus è andata a misurare la sua altezza, la sua grandezza contro questa squadra, e l'abbiamo intuita, quantomeno. Non c'è niente di male, è il primo tentativo, si sta ricostruendo, poi vedremo, però in questo momento Bayern, Real e Barcellona sono di un altro livello. Cesare Pescara. Salve, buongiorno, innanzitutto grazie per la compagnia tutti i giorni. No, grazie a lei, grazie a lei. Programma brillante e divertente. Grazie a lei. Senta, volevo dirle, io sottoscrivo in toto l'intervento di Crosetti, proprio dalla prima all'ultima parola, sì. Nel senso che io sono rimasto molto molto deluso dalle parole di Conte. Da questo punto di vista, va bene riconoscere i meriti degli avversari, però mi è sembrato, in tutti gli interventi di Conte che ho sentito, che ho letto, quasi un voler rimarcare più volte questa distanza che ci c'è tra la Juve e il Bayern Monaco. Lo sapevamo economica, tutti, lei dice? Che c'è una distanza economica, sì. Sì. Nel senso, quasi un voler batter cassa verso la società, rimarcando effettivamente la necessità di qualche investimento più importante. Ora, ci sta questo, ma alla fine di una partita... e con la prospettiva di un ritorno da un uomo come Conte, che è in grado, col suo atteggiamento, sappiamo quanto lui, no, sia importante anche con i suoi giocatori, mi sarei aspettato anche che parlasse di tattica, che avesse fatto qualche riferimento al non utilizzo di Asamoah, di Pogba. E secondo me, io mi domando, Cesare, io mi domando, allora facciamo chiarezza, io mi domando come... Sì. Io mi domando come un giocatore fisico e bravo come Asamoah possa finire in panchina ai margini della Juventus e possa giocare. Perfetto. Peluso, che è un buon giocatore, però in certe partite noi lo sappiamo, l'abbiamo imparato anche insomma, nel confronto tra Milan e Barcellona. Il Milan all'andata aveva fatto ricorso alla fisicità di alcuni giocatori, bravi. Al ritorno ha rinunciato e questo secondo me è stato un errore. Io penso che uno come Asamoah debba essere titolare della Juventus. Penso che uno come Pogba in quel centrocampo sarebbe stato bene per dinamismo, per pericolosità, per esuberanza fisica, per faccia tosta. Quindi, ma di questo possiamo parlare anche 8 ore, perché alla fine le scelte sono state quelle. Forse non sarebbe neanche cambiato nulla. Però in un confronto che è anche fisico, come quello con il Bayern Monaco, io a questi giocatori non avrei rinunciato, ma lo dico io, che sbaglio sempre. Come sottolinea Orazio da Reggio Emilia, la sua arroganza e i suoi toni da superuomo e di sfida non sono degni di Radio 24, ma quanto è raccomandato lei. Orazio, nulla, non sono raccomandato nulla, ma proprio per niente. Lei sarà raccomandato. Se vuole interviene 800240024 e ne parliamo. Senti, qui bisogna fare in fretta, caro Francesco Cosatti. Siamo qua. Perché domattina sei convocato alle 8 a Vinovo. No, fermi. Fermi. C'è la notizia del giorno, niente base, niente sussurri, niente grida, perché è arrivata la notizia del giorno che va data con grande serietà. Allora, la storia di Taribo West. Ve lo ricorderete, no? Ha giocato nell'Inter, nel Milan, le Treccine, eccetera eccetera. Ebbene, da Belgrado arriva una rivelazione. Parla Zarko Zecevic, ex presidente del Partizan, che lo ingaggiò nel 2002, lo tenne in Serbia fino al 2004. Bene, nel corso di un'intervista Zecevic ha parlato di un dettaglio incredibile, che è questo: quando lo acquistammo diceva di avere 28 anni, ma più avanti abbiamo scoperto che in realtà ne aveva 40. Però giocava bene, quindi non mi pento di averlo avuto in squadra. Incredibile, ma vero, a patto che l'anagrafe confermi, dicono le notizie di agenzia. Anziché essere nato nel 1974... come risulta dai certificati, West sarebbe un classe 1962. Dunque, alla prima esperienza italiana con l'Inter avrebbe avuto già 35 anni. Idolo assoluto Taribo West. 800240024. Ha fregato tutti. Certo, un fenomeno non era, ma se è così, vabbè. Sui dati anagrafici di giocatori che arrivano dall'altra parte del mondo, brasiliani compresi, non mettiamo mai la mano sul fuoco, ma ragazzi, tra 74 e 62 bene passano, eh? Vabbè che non le dimostrava che aveva un gran fisico, però se è così è veramente un califfo. 800240024, numero verde, Francesco, provincia di Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno, Sergio, perdoni l'emozione. Ma cosa? L'emozione. L'emozione è mia, dopo aver letto di Taribo West che ha giocato all'Inter a 50 anni, voglio dire, al Milan a 60. Avrei voluto cambiare argomento, dato che domenica inizia il moto mondiale. Cambi, sì, adesso ne parliamo anche. Argomento. Se dico Valentino Rossi che stravincerà il mondiale di quest'anno. Buonasera, l'ascolto per radio. Cosa mi ascolta per radio? Vado a sventolare la bandiera fuori dalla finestra di Radio 24 qui in via Monterosa. Cioè, io tifo Valentino Rossi in maniera viscerale e dichiarata. Non lo so, a me sembra difficile, ma non me ne frega niente, io sono tifoso, voglio che Valentino Rossi vinca il mondiale, voglio che Valentino Rossi faccia una grande stagione, è uno dei miei idoli sportivi. sarà molto dura perché Jorge Lorenzo è il capo della squadra e non è uno tenero, perché Marquez mi sembra l'astro nascente di questo moto mondiale, perché devo ancora vedere, devo ancora capire, al di là degli exit poll che possono dare le prove che abbiamo visto fino adesso, devo ancora capire quanta voglia, quanta rabbia, quanta carica abbia ancora addosso il doctor. Sono insieme, è durissima adesso, è durissima. Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, ce la fa, è entrato, non ci credo, non ci posso credere, no, cosa ha fatto, non ci posso credere nemmeno io, è impossibile. Bravo, Rossi c'è, che gara, che sorpasso, come ha fatto a rimanere, che cavolo gli volete dire. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele, yeah. A gonfie vele, oh, yeah. a gonfie vele. Sì, sono in forma, sono molto, molto motivato e soprattutto sono felice di avere un'altra possibilità con la Yamaha ufficiale, che è la mia moto, che è la moto che mi ha dato tante soddisfazioni. Ecco, quindi sono soprattutto contento perché penso che quest'anno ci potremo divertire, ecco, quella è la cosa più importante alla mia età. Siamo molto forti, aspettiamo che è uguale che 3-4 anni fa. Sarebbe perfetto perché abbiamo vinto tante gare, tanti podium, tutti e due vicini. Aspettiamo che la nuova etapa sia uguale di positiva che l'anteriore. E vi volete più bene di prima? Sicuramente sì. Sì, sentirla sì che la senti la pressione, ma alla fine è il mio primo anno e così andiamo piano piano, vediamo come va e gara tra gara, sicuramente io farei il mio 100%, ma alla fine vediamo come va, non è nessuna pressione per vincere o per fare un podio. Vado al massimo, vado in Messico. Penso che possiamo avere dei lati positivi in frenata, ma è un punto interrogativo che scopriremo domani nel primo turno, anche se ci sarà un bel sabbione, siamo nel deserto. E sono molto eccitato di partire, poi vedremo. La gioventù ti ha a gonfie vele. Valentino Rossi, Lorenzo, Marquez, Dovizioso, questi in ordine di presentazione. Sì. Se volete dire che siamo proprio messi male, anche tifosi di Valentino Rossi, con lei siamo proprio messi male. Sì, siete messi malissimo. 800240024, tifo Valentino Rossi con tutta la mia anima e tutto il mio cuore. Lo dichiaro apertamente, va bene? Se voi ti fate... Cioè, Marquez, le moto sono la mia grande passione, sono qualcosa che sento nell'anima. Sono un tifoso viscerale di Valentino Rossi e lo dichiaro pubblicamente a todo il mondo. Ci sono poche persone di cui mi fido sul piano delle informazioni motociclistiche, come il mio amico Roberto Ungaro, che mi dice che Marquez è il domani del moto mondiale, è il nuovo fenomeno. Va bene, ma quest'anno io tifo Valentino con la bandiera fuori dalla finestra. Saluto suo papà, Graziano Rossi. Ciao. Che ci vuoi fare, Graziano? Qualche volta bisogna dichiararsi. Io tifo Valentino, non ci posso fare niente. E io spero che vinca il mondiale, spero che trovi la carica, la rabbia, la garra per far vedere che ha ancora una volta voglia di salire su quella moto e di sverniciare tutti. Che ti devo dire? Cosa ridi? Devo pensarci un attimo, credo di essere abbastanza d'accordo con te. Sì, sì. Senti, ma guardandolo negli occhi, che cosa vedi quest'anno? Ecco, è proprio perché negli sportivi conta la faccia, non contano tante parole. Sono passato a salutarlo l'altra sera prima che partisse per il Qatar ed era la seconda volta, perché mi era già successo qualche settimana fa, di ritornare a vedere finalmente un'espressione che, come degli occhi che potrei definire, come? Gioiosa, accesa, però sono tutti termini che non danno l'idea, ma la magia invece. Un'espressione magica, ecco questo. Senti, quanto ha sofferto Valentino? Valentino ha sofferto molto. Adesso leggevo i giornali di oggi e per fortuna dice che soffrire può aiutare a maturare, sì, no? può aiutare a diventare più forti quando da una situazione di sofferenza ne esci, però questo non significa che se si dovesse ripresentare l'opportunità di soffrire così tanto si debba sceglierla, ecco, non è così. Ha sofferto molto, purtroppo. Ti faccio una domanda invece da pilota: quanto vale Marquez? Marquez vale molto, lo hanno già detto un po' tutti, l'ho detto Valentino per primo. Valentino ha detto: Marquez, rivedo un po' quello che ero io quando ero giovane, ha detto Valentino, con quello che poi Valentino è riuscito a vincere. Credo che questa sia la dichiarazione più bella possibile. Marquez vale molto, molto. Quanto fastidio dà Valentino un compagno di squadra come Jorge Lorenzo in questo momento? Adesso, secondo me, si può parlare di più del fastidio che dà Valentino a Lorenzo oggi. Bravo Graziano. Si sono invertite le cose e credo che sia così. Un crescendo nelle prove, ma io ho dichiarato il mio tifo, quindi non mi rompete le scatole, faccio il tifoso. Un crescendo nell'inverno delle prove fino ai tempi migliori, tu te lo aspetti già con i primi in Qatar? Non faccio testo io non faccio. No, testo. Ma te lo chiedo mica come papà, è come pilota. E io credo che con un po' di saggezza, per pensare di vederlo vincere una corsa, bisogna aspettare almeno ieri. Almeno ieri. Le prime due gare io non penso che sia logico pensare a un Valentino primo. Ecco, se sale sul podio o se fa delle belle gare è già una cosa molto, molto, già una grande gioia. Ecco. Sì. Sono d'accordo. Graziano, io se viene fuori un Beckenbauer a caso e dice che Valentino è un pensionato, gli do una testata. Cosa ci vuoi fare? Sono un po' pilota anch'io. Le moto per me sono la grande passione della mia vita, anche se non sarò mai Valentino Rossi e neanche Graziano Rossi. Raccontami la tua storia di pilota. La mia storia di pilota è inesistente. Io vivrei sulla moto e ci dormirei anche. Ti dico solo questo. E su quale moto? E questo non te lo posso dire. Un giorno ci vediamo e facciamo un giro insieme. Però guidi tu. Non so se posso farlo. Non so se... Guidi tu. No, non se posso, non so se voglio farlo. Perché questa cosa che non mi vuoi dire mi mette un po' di ansia. E quindi non so se voglio farlo. Ti telefono dopo. Ti chiamo dopo. Grazie. Grazie a Graziano Rossi, il papà di Valentino e grande pilota che io mi ricordo, perché di anni insomma ne ho abbastanza. 800 24 00 24, vergognati tu che scrivi, com'è possibile che ti piaccia quel merda di evasore di Valentino Rossi? Non ti vergogni, dovresti essere radiato nell'albo dei giornalisti, voi siete colpevoli, io guardo la pista, il resto delle faccende non mi interessano. Valentino Rossi, evasore fiscale, deve essere punito, è stato punito, però vorrei fossero puniti anche molti evasori fiscali molto meno noti di Valentino Rossi e magari anche chi scrive. Strade. È stata molto bella, sono contento. Lo voglio dedicare assolutamente al Ziz. Secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Tutti convocati. Digli di pagare le tasse a quella che soffre, ma inculati scemo. È un messaggio che mi arriva, ma sono come i giocatori in trasferta, queste cose mi caricano ancora di più. Che pagasse le tasse, sì! Valentino Rossi, che pagasse le tasse, sì! Max Biaggi, che pagassero le tasse, sì! Tutti i giocatori che pagassero le tasse, tutti, come io, lavoratore dipendente, faccio da una vita! Tu sei un professionista, devi fare delle altre professioniste, no? Sì! Io le tasse le pago. E voi le pagate tutti? O fate come Valentino Rossi e poi scrivete i messaggi? Eh? 800 24 00 24. Io zappavo la terra. Anch'io. La zappo ancora. Natalina da Milano. Senta, io volevo, sono una sfegatata, io amo Valentino. Anch'io. Senta, io non, non in senso fisico, sia chiaro. Sia che chiaro. Colore devo prendere la bandiera? Perché voglio metterla fuori dalla bianca, finestra. Rossa e verde. Bianca, rossa e verde. Che colore vuole prenderla, signora? Se no, la prenda gialla numero 46. Io prendo quella, gialla numero 46. Gialla col 46. Numero 46. Gialla col 46 nero. Devo andare in Piazza Duomo a Milano a prenderla allora. No, guardi, gliela facciamo mandare. Non lo so. Prenda quella che, quella che vuole. Piuttosto gliela porto a casa io. Che non ho capito bene. Domenica questa qua, eh? Sì, signora Valentina, domenica questa qua. Ma io non ce l'ho la bandiera da mettere fuori dalla finestra. La troviamo tempo di domenica, giovedì. Signora, la troviamo. Domenica, allora, si corre in Qatar, a Losail. Sì, ho oggi sentito. Ci sono le prove libere, domani le prove cronometrate. Ho sentito. Ok, allora, la gara diretta su Italia 1 alle... adesso lo dico, 21 al 21 alle, okay. 21, alle 10, alle 9 di sera me la godo tutta anch'io, come un matto. Sì, ma io volevo la bandiera, voi potete mandargliela. No, allora facciamo in modo di mandargliela. Come la vuole? Quella di Valentino. Quella io di Valentino non l'ho mai vista. Allora facciamo in modo di fargliela avere. Adesso lo dico al centralino e che lascia l'indirizzo e io le faccio la compro io. Le faccio avere una bandiera di Valentino Rossi, ok? Mi impegno in questo. Sarti a Milano. Bene, allora mi impegno in questo, Natalina, mi impegno a farle avere la bandiera di Valentino Rossi. Grazie. Un bacio. Eva, provincia di Bergamo. Anch'io amo Valentino, sia che vinca, sia che perda, sia che parli, sia che non parli. No, lo io... amo in tutti i modi. No, tutti? No, allora... non in quel modo, ecco. No. Io lo amo sportivamente. Sono più vecchia io di Valentino. Anch'io. Ecco, ti appoggio in tutto e basta con questa storia delle tasse. Ce n'è migliaia e centinaia che vivono a Monte Carlo e dappertutto e non le fanno mai niente. Ma sei un evasore. Ma allora sappiamo tutti che ha evaso il fisco, ha preso le multe, ma ha sì, pagato ste multe. Beh. E allora io le tasse le pago, sono invidioso come una bestia di quello che guadagna Valentino Rossi. Secondo me ha fatto male ad evadere il fisco, perché ci rimettiamo tutti noi che invece le tasse bam bam le paghiamo tutte le volte. Però io guardo la pista, io guardo lo sport. Poi se vogliamo fare se facciamo demagogia non è demagogia, perché insomma un evasore fiscale è un evasore fiscale, però ce ne sono purtroppo ancora molti. Quelli che vivono a Monte Carlo e non stanno in Italia, questo almeno ha avuto il coraggio di dire ho sbagliato, ha pagato, sì, è tornato a vivere in Italia. Sì, ha fatto il furbo, ma Eva, facciamo i bravi, ha fatto il furbo, ha detto vivo a Londra, non pago le tasse. Sì, vabbè. Il furbo, però questo purtroppo è un paese di furbi da cui io vorrei evadere, evaderei volentieri, non lo posso posso fare fino a che sto qui, ma anche se stessi da un'altra parte ti farei Valentino Rossi. Quindi io guardo la pista. Sei contento di pagare le tasse quando un tuo collega tedesco prende il doppio del tuo stipendio? Complimenti, le tasse vanno pagate se giuste, non quelle che ci ammazzano, brutto coglione, mi scrive Gigi da Milano. Non so cosa dirti, Gigi, sarò anche un brutto coglione, le tasse vanno pagate se giuste, io non le evado, io sono un lavoratore dipendente, pago le tasse e chi le evade è un delinquente, tutti compresi. Va bene? La mettiamo così? Non voglio andare in politica perché parliamo di sport. Giuseppe Brescia 80024 0024. Sì. Sei lì? Eccomi. Sì. Eccolo. Sì, ho sentito Brescia, sono Vercelli, comunque fa niente. Io no, ma ha scritto Brescia, leggo Brescia. Qui vi faccio un passo indietro, insomma. No, niente. Volevo parlare di Bayern Juve. Per quanto riguarda Buffon, sì. Io direi che, secondo me, è stato più un errore il secondo gol che il primo, perché sul secondo gol aveva le mani all'altezza del petto e non era riuscito a bloccarlo, un tiro comunque da lontano e secondo me non fortissimo. Quindi forse il primo almeno una deviazione, più o meno ho capito, diciamo, ma è partito tardi da morire, eh? È partito sì, cioè poi quella palla non è neanche partito tardi. No, ma sul secondo ha pure delle colpe, Giuseppe, eh. Io sono d'accordo con te, cioè sul secondo ha pure delle colpe, certamente non a caso ha preso 4 in pagello, 4 e mezzo quasi ovunque, ha giocato vabbè, ma anche i campioni sbagliano, eh. Sì, per carità, eh. E poi sulle dichiarazione di Conte, io ho sentito qualche intervista subito dopo la partita, Conte a Buffon, a Pirlo, sono rimasto un po' sorpreso perché erano molto rassegnati, hanno detto no, quelli sono più forti, Conte ha detto che possono spendere, ma tutti, anche Buffon, Pirlo, sì, si sono dimostrati più forti. Cioè, ma sono più forti? Sì, ma avrei voluto sentire un qualcosa di dire... sono più forti, ma al ritorno faranno fatica, al ritorno dovranno... Invece anche sulle domande al ritorno, ma sì, non è finito, ma erano frasi un po' di circostanza. Sì, però vedrà che... Sì, ma però vedrà che al ritorno la Juventus giocherà una grande partita, la Juventus scenderà in campo col sangue agli occhi, ma questo è evidente. Poi il Bayern è più forte, è inutile... Ma uscire non vuol dire... vorrebbe battaglia, ma ce l'avrà, preferito, per dire, che Conte si attaccasse, anche se non c'entrava niente, agli episodi, dire ma sì, abbiamo perso, su questo non sono d'accordo, attaccarsi agli episodi e a queste cose qui, all'arbitro, alle circostanze. La Juventus è stata rullata, asfaltata dal Bayern di Monaco, che è più forte della Juventus. Io sono convinto che al ritorno la Juventus scenderà in campo con il sangue agli occhi, penso che uscirà dalla Champions League, proprio perché il Bayern è più forte, però giocherà una grande partita. Sono convinto di questo perché la Juventus è una squadra che, se ha una cosa, sono le palle, quindi giocherà alla grande questa partita. Poi il Bayern Monaco è più forte e l'altra sera abbiamo avuto la misura della Juventus in questo momento sul piano internazionale. Raffaello dalla Spezia. Ciao, grazie. Ciao a te. Anche il secondo gol è, secondo me, discutibile molto, e mi spiego. Ma non solo per Buffon, ma per tutti i portieri italiani da anni. Mi pare siano scomparsi i portieri con la presa d'acciaio. Vedi Castellini del Torino una volta, la Pantera. Sì. Sembra che vogliano respingere ad oltranza. E almeno, dico io, facessero come una volta, che deviavano in angolo. No, gliela buttano lì, davanti al giocatore... che gli sta all'occhio. È così. Cosa vuole che le dica? Presa d'acciaio o non presa d'acciaio? Secondo me non si può discutere Buffon. Si può dire che ha giocato una pessima partita l'altra sera, che ha fatto due errori, e sono d'accordo sul fatto che sono stati due errori. Però discutere il valore assoluto di Buffon, anche ora che è in là con gli anni, e penso a Dino Zoff e all'età che aveva quando ha vinto il mondiale da grande protagonista, insomma, secondo me portieri così non ce n'è al mondo come Gigi Buffon. Amore mio, ne riparliamo quando avrai una famiglia delle tasse. Chi scrive? Io una famiglia ce l'ho, e allora parliamone quando vuoi. invece di insultare delle tasse che io pago e tu non lo so. 800240024, questo è il numero verde che rimane buono anche domani. Salve direttore. Non sono direttore, sono un peone qualunque. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Tempo di Sport. No, tutti convocati, Tempo di Sport una volta. Tutti convocati, torna domani alle 2. Ciao. Senta, io zappavo la terra.